delle storie tutta facile. Sì, sì, Gianfra, ma io devo dire che con la Radio Galena mi sono divertito più di una volta e ho mangiato anche qualche panino imbottito così per scommessa, perché mi ricordo una volta parlando con una persona che era in bottega da me, ti vuoi scommettere che ti faccio la radio adesso? Stavamo parlando, vuoi scommettere che te la faccio adesso su davanti a te? Ma che cosa fai? Ho preso la tavoletta, un pezzo di tavola, ho già fatto. Avevo tutta la componentistica che mi serviva, un condensatore variabile di quelli a lamelle, avevo, e ce l'ho sempre, anzi ne ho uno addirittura doppio, più di uno ne ho anche. E un diodo, se ricordo bene, 34N, boh, adesso non mi ricordo, comunque un diodo avevo, la radiatrice, che ti puoi immaginare, e ho fatto la radio così, e adesso ti faccio sentire la radio, ma cosa mi fai sentire? Beh, cosa si chiama? Io la colazione, vabbè, va, d'accordo, la colazione, mi fai sentire la radio? Sì, ti faccio sentire la radio, gli ho fatto la radio davanti a lui stesso, ho messo come antenna, ho messo la massa delle macchine di fare giameria o Gianfra, e come antenna, allora in quel periodo avevo anche la televisione io e fare giameria, e avevo un'antenna così provvisoria messa sul palco in alto, proprio di fronte all'ingresso, e avevo collegato tutto come antenna e gli ho fatto sentire la radio. Beh, prima sono stato io ad avere la colazione gratis, pagata da questa persona, no? Poi è lui che si è fatto il giro del quartiere, si è fatto con tutte le persone che conosceva e vinceva le bevute anche, la birra, eccetera. Tutti ridevano con questa tavoletta in giro, con queste quattro pezze di coso inchiodate sopra. Ha fatto il giro del coso. Un'altra volta invece, ancora quelli ancora molto prima di questo particolare, allo stadio dei Pini, no? C'è la recinzione, la rete metallica che delimita l'ingresso sulla pista, e l'avevo attaccata lì come antenna di terra, e sai, siccome io avevo praticato per anni lo sport, e anche lì mi sono divertito abbastanza con gli altri colleghi polizi, eccetera, per dirti, no, la situazione, ma diciamo che anche con la Radio Galena mi sono divertito ugualmente. Dai, Roberto. Sì, erano le albure alla radio, però ho raccontato, ci sono tante cose, io ci ho letto proprio l'altro giorno di questo campo di concentramento, poi gli italiani ci hanno molta inventiva, hanno costruito questo trasmettitore, addirittura neanche il ricevitore, non so cosa avevano fatto per costruire una valvola, cosa avevano utilizzato, ma cose allucinanti, cosa erano riusciti a fare, soprattutto non è tanto fare in modo che non te le trovino prima di tutto, e poi dopodiché con quei pochi elementi che avevi di lì a disposizione, cose, con delle lamette avevano fatto i variabili, cioè cose proprio a livello di corso, di piccolo Archimede. Ho letto un libro a poco, proprio si è parlato di questo fatto qua, che gli americani sono rimasti a bocca aperta quando l'hanno vista questa cosa, dice una cosa, no, per come sono riusciti a fare, cioè con niente sono riusciti a fare un trasmettitore. Sì, beh certo, poi la soddisfazione ancora più bella è quando avevo costruito, avevo un opuscolo, non mi ricordo, forse la CQ elettronica, ma io parlo di tantissimi anni fa, ero anche molto giovane, molto, no, ma avrò avuto, che so io, 35 anni, 37, 38, non lo so di preciso, e avevo costruito questa cosa, radio a reazione non è altro che una radio che riceve, sì, le stazioni radio, eccetera, eccetera, però disturba talmente tanto che non è possibile accenderla, perché tutto il quartiere dove sei tu lo affossi completamente quando accendi quell'affare. E allora cosa era successo? Era il periodo che io abitavo nell'altra casa e avevo l'antenna attaccata nella ringhiera del balcone a casa, perché allora ero in affitto e non mi lasciavano salire sul tetto, allora io avevo messo l'antenna, la gran prieta attaccata alla ringhiera con delle staffe appropriate, e avevo l'antenna del baracchino lì. Senza nemmeno attaccarla, questa antenna già secondo loro disturbava la televisione, invece non era vero, anche perché io nello stesso tubo avevo l'antenna della televisione mia personale, perché dove abitavo io era una palazzina di quattro inquilini, di quattro appartamenti, e c'era l'antenna centralizzata, no? Beh, a quel punto lì non mi davano più pace, perché secondo loro io stavo disturbando la televisione, invece non era assolutamente vero. quel giorno prendo e parto in campeggio, me ne vado in campeggio e sono stato una settimana senza rientrare a casa. Cosa ho fatto? Ho preso e acceso la radio a reazione. Non te ne dico niente, non abito la televisione, nessuno già fa. Ho fatto una cosa magari da criminale, però mi è servita, perché da quel preciso istante non ero più io che disturbavo la televisione. Dice, no, se non c'è a casa sua, è in campeggio. Gianfranco, dite come stanno le cose, no? Tu alle persone, quando le dimostri che sei un maschio, allora capiscono e ti rispettano. Vai Gianfranco. Piuttosto, se mi consentite, vorrei passare un attimo di palo in frasca, letteralmente, anche se è una cosa che riguarda le radio. Voi che sicuramente ne sapete più di me, esiste ancora a Sassari la figura cosiddetta, poi mi correggerete se sbaglio, del lattoniere, che dovrebbe essere quello che fa, che lavora la latta praticamente? Perché io volevo costruire una scatola di metallo che mi serve proprio per una radio, però volevo capire se c'è qualcuno che ancora fa questi lavori, ecco. Perché presumo che ci voglia una specie di presa per fare un rettangolo, una scatola quadrata o comunque quelle forme lì. Sapete dirmi se esiste? Non so neanche se la torniera sia il nome giusto. Sì, diciamo che la torniera praticamente non è altro che una specie di idraulico su commissione, dai, una cosa del genere. Ma in questo fatto qua ti può rispondere benissimo Roberto, perché lui, avendo la carrozzeria, sicuramente è in grado di costruirti una scatola come tu desideri, non c'è problema. Vai Roberto. Sì, no, vabbè, diciamo quello che voglio dire, in principio si può fare qualunque cosa, noi costruiamo qualunque tipo di cosa, soprattutto il campo automobilistico, ricostruzione di pezzi d'epoca, di moto, di macchine, eccetera, eccetera. Fare una scatola è la cosa più semplice, con una piegatrice e basta. Però quello che voglio dire è, non so quanto sia conveniente, si fa prima a trovarne una bella che è già pronta. Infatti era quello il dubbio. Certo, pagare 100 euro una scatola mi sembra un po' esagerato. No, ma ci sono anche di vecchi apparati, non so, che dimensioni vuoi tu, cosa c'è di trattare dentro? Guarda, dunque, le dimensioni dovrebbero essere, vediamo, ma diciamo che siamo nell'ordine dei 25 come frontale, per una larghezza di 25 per 10 di profondità, poi andrebbe penso intorno ai 30-40. Ma diciamo dimensioni, ad esempio un 140 o un 440, una dimensione del genere, è grande o piccolo? Ma tipo 140, ecco. Quindi grandicella, poi andrebbe anche modificata per avere, ma ero interessato solo a capire se esisteva ancora questa professione e i costi possibili per fare un'operazione del genere. Diciamo è una professione che sta scomparendo, perché i vecchi lattonieri, quelli che la latta, iniziavano a lavorare la latta, che facevano le pentole, le cose, stanno ormai morendo, si trova in qualche paesino. Però il carrozziere, il vero carrozziere, ha iniziato come lattoniere, si chiama lattoniere perché lavora la lamiera, lamierista o lattoniere, non cambia niente. Però diciamo che si può fare tutto. E il problema è il frontalino, uno di cosa c'è da mettere davanti? Un frontalino in alluminio deve fare dei fori o cose del genere, o una scatola chiusa, tu con i due coperti? No, anche una scatola chiusa, però chiusa nel senso che il coperchio sia amovibile, ecco, dopodiché il frontale, la radio ovviamente ce l'ha già, c'è tutto, la radio esiste proprio come apparato, solo che dentro una scatola farebbe una figura per un uso campale, ecco. Quindi basta fare il coperchio superiore ad angolo, diciamo, una copertura con i fianchetti e sotto una base più solo per stringerci le viti dei fianchetti, cioè del corpo superiore, tipo come la copertura di un apparato, diciamo un 140 o 440, cioè un coperchio superiore e una base con le viti laterali per metterci, per fissare il coperchio. Più o meno così, ma cosa del genere? No, si può fare tutto, però naturalmente ci deve essere anche il vantaggio, perché se riprende la lamiera, comprare la lamiera zingata, da quanti millimetri la vuoi, da 8 decimi, da 1 millimetro, da 10 decimi, tante cose, e poi alla fine dici, ma lo faccio prima andare in qualche sfacciacarrozze, da Marcido, la trovo bella che è pronta. Molte volte loro ritirano questi apparati industriali, cose del genere, prende una con le scatole, si fa tre, come ho fatto io all'epoca quando avevamo la radio, una piccola radio di quartiere privata dove c'era l'amplificatore, avevo cercato un cassone, ho trovato un cosmo, era esageratamente grande per quello che c'era dentro, era di un alimentatore sempre di una radio privata, che era c'era lo stadio pilota, lo stadio finale, più c'era l'alimentatore, uno di quei cassoni in misura di rec da 19 pollici, era 38 centimetri, adesso mi ricordo quanto era, o 42 centimetri, adesso mi ricordo esattamente, e l'ho messo di lì, cioè, forse ce l'ho ancora col cassone. Forse tanto prima o poi ce l'ho passare, perché devo prendere dei tubi per fare una costruzione da Marcello, da qualche altro. Quindi in effetti forse conviene provare lì. Giulio sicuramente mi darebbe il consiglio che lui la farebbe in legno, però a me occorre un piano di massa. Il legno sarebbe una radio ultramoderna, quasi una cosa un po' buffa, ecco. Sì, già fa, beh certo, ma quello non sarebbe un problema, perché anche dentro la scatola di legno si può mettere sempre il piano di massa, e il materiale lo trovi in maniera molto facile, adatto alla lamiera. Ad esempio, non so se ce l'hai presente, i computer, quelli da base, quelli dei fianchi sono di lamierino sottilissimo, e dunque anche molto molto facile alla piegatura, che sono convinto che se tu prendi due pezzi di materiale duro, o addirittura due spranghe di ferro, li puoi piegare anche abbastanza bene, magari utilizzando il fondello intero, fai delle alette da fissare sotto senza nemmeno saldare, usi i rivetti e ti colleghi ugualmente bene lo stesso, poi eventualmente ti aggiusti anche quello dello stucco a ferro per poterlo finire, per poi poterlo anche riverniciare. E ripeto, i pannelli di quei computer sono lavorabilissimi, perché sono leggeri, non si arrugginiscono e niente, e per cui io te lo dico, perché proprio in questo momento ne ho due a portata di mano, e di un computer che avevo demolito, ne ho tolto i pannelli e ne ho tolto anche l'alimentatore, per cui, e ne ho ancora un altro computer sempre da demolire, lo stesso, che funziona, però ormai è lento, non ne vale più la pena, ormai uso il computer, io e gli altri a casa usano il computer portatile, più semplice, più pratico, eccetera. Per cui, ripeto, con quei pannelli lì tu ti puoi arrangiare a fare il lavoro che ti serve, non c'è problema, Gianfra. Ripeto, prendi due montanti, anche di legno duro, li chiudi con i morsetti, prendi la misura e poi con le mani stesse lo riesci a piegarlo mettendolo per terra, facendo la forza della tua persona, perché la lamiera è talmente leggera che tu riesci a piegarli abbastanza bene, Gianfra, non c'è. Ne sono più che convinto. Dunque, uno se proprio vuole, se può adattare e farlo così, anche senza l'attrezzatura dovuta, è necessaria quella che serve veramente per fare un lavoro come si deve. Va bene, avanti Robert. Aspettate un attimino, nel bianco c'era qualcuno che voleva entrare, avanti chi vuole entrare, eh? Era un segnale molto forte qua vicino, era 9:40 quasi. Ok, va bene, riprendi tu Gianfra. Sì, infatti lo stavo vedendo anch'io. Può essere spostato a fare, evidentemente sta provando qualcosa. Dove volevo fare, infatti, questo scatolone, per questa radio che oltre a sentire appartiene a quella categoria di radio che vede anche, vede in un certo range, in un certo controllo, un po' tutte le altre frequenze. Sì Giulio, mi ha dato un'idea, e tra l'altro sicuramente dove sono io ne abbiamo a tonnellate di queste scatole, magari ci hanno pure buttate, e mi ha dato un'idea, solo che adesso causa questa rottura di pandemia, siamo un po' insomma tutti un po' costretti a rimanerci al riparo, dai, vediamo. Ok, sono le 8:15 già, quindi io dovrei anche andare a mangiare qualcosa, con il vostro permesso sempre. Ok, Gioffra, se devi chiudere, allora ti saluto, grazie per la chiacchierata, è stato un piacere. Di queste chiacchierate così veramente se ne fanno, e torniamo, se non voglio rinfagare quello che si è detto prima, però corrisponde alla realtà. Grazie ancora Gioffra, alle prossime, dai, pensaci per quello come ti ho detto, vedrai che riesci a fare da solo. E ricordati una cosa, chi fa per sé fa per tre, perlomeno così dice il proverbio. Avanti Robert. E a Gianfranco mi sentito, è sempre un piacere, dai. Buon tutto, buona carica e buon proseguimento di serata, qualunque cosa devi fare. Anche io rimango ancora un pochettino e tra poco il languorino della fame si fa sentire, dai, avanti a te Giulio. Ecco, è registrato il break, sì, beh certo, sto bene, io, anche perché fra non molto è ora di cena, perlomeno qui da me, poi ognuno ha le sue abitudini, no? Noi di solito alle 8, 8 e 10, 8 e un quarto massimo siamo a tavola. Va bene, avanti il becco. Salutoni circolari a tutti, vi date un controllo, come sta uscendo questa radio? La radio è forte, però è un po' barattolosa, io perlomeno ti sento così. Diciamo, se abbassi il microfono sicuramente migliora senz'altro. Ti faccio dare controllo anche da Roberto e da lui la sua. Vai Roberto. Ehi, ciao Daniele, infatti senti un attimo, non sono sentito di subito, avanti. Guarda un po' Roberto, 1, 2, 3, 4 e 5, com'è? Allora, prima di tutto, vabbè, la radio diciamo è 5, è chiara, ti sento un po' distante, molto amplificata il fondale, diciamo, i disturbi che c'è tutto intorno, ti sento come un effetto camera molto evidente, c'è questo ronzio di ventole o cosa sia, non lo so. La radio comunque ti ascolto abbastanza bene, niente da dire. Segnale 9+30, di nuovo a te Daniele. Quello che senti è la ventola dell'alimentatore, questo è un preamplificato, capito? Però o sei troppo lontano dal microfono, prova a avvicinarti un po' con la bocca al microfono, perché la voce è chiara, la tua voce è naturale, come ti conosco, al contrario dell'altro giorno che non ti sentivo bene. Oggi ti ascolto bene, però c'è molto presente questo rumore dell'alimentatore, magari se riesci a girare la ventola, a fare qualcosa, riesce a migliorare la situazione. Guarda adesso, aspetta, abbasso. Prova a parlare. Guarda un po' adesso, ora, aspetta. Guarda adesso. Ti sei abbassato tantissimo il segnale, però questo avvento non si sente un bel. Lo so, l'ho fatto a posticcio, diciamo, dai. Che devo sistemare un po' di cose e quella giusto per provare. Mettitelo il più lontano possibile da coso, perché sembra anche una vibrazione, come che ce l'hai vicino, è una cosa vibrante, mi sembra che sia in un'officina che stanno usando una mola. Si conferma. Ho detto, sotto al microfono c'è questa ventola perché non c'ho spazio adesso. Ho fatto una cosa provvisoria, dai. Va bene, ok, dai, piano piano già ritornerà tutto i vecchi tempi di Daniele, come uscivi prima. Vai Giulio. Sì, confermo anch'io, la radio è forte, è abbastanza chiara anche. Diciamo che in parte copri anche il rumore della ventola, questo sì è vero. Poi parlando del microfono, il microfono è una martellata sull'incudine, quando schiacci pam, fa proprio una martellata sull'incudine, è chiarissima, bella e potentissima. Va bene Daniele, dai, il discorso della ventola, diciamo, con questo tipo di alimentatori ce l'abbiamo un po' tutti, ce l'abbiamo, dai, anche io me lo trascino dietro, il rumore della ventola, dell'alimentatore, è un po' meno forse di quello che hai tu, di come ce l'hai tu, però c'è sempre, dai, si sente, se lascio la portante senza parlare si sente, per un attimo 3 secondi di portante senza parlare. Ecco, l'avrei sentita. Vai di nuovo, Daniele. Cava. Lo so, ma domani già sistemo tutto se c'ho tempo, dai. Ripeto, ho fatto una cosa così, a posticcio, poi adesso piano piano mi organizzo e me la rifaccio bene. Break? break è registrato, va bene Daniele, no, non è un problema, ripeto, già si capisce abbastanza la radio, è abbastanza chiaro, oltre che pulita la radio, ma è solo quello, l'interferenza, se così la vogliamo chiamare, che poi in realtà non è un'interferenza, è solo un rumore di fondo che proviene appunto dalla ventola commettore. Avanti il break con la buonasera. Capa, buonasera Daniele e buonasera anche a te. Antonio da questa parte. E chi è questo Antonio? Io non lo conosco, la verità non lo conosco. Vabbè, tu lo conosci questo Antonio? Buonasera Antonio, comunque io la verità non te lo conosco. E avanti Robè. Conosco, ciao, ti ho ben sentito. Come non mi conosci? Mamma mia! Va bene, dai, Bianco, per me ci sentiamo dopo se coincide. D'accordo, Daniele, dopo allora, dai, se ci sarò ancora in frequenza, se no avremo modo di risentirci in un'altra occasione. Se no, la verità, te devi spiegare, perché io non ti conosco, la verità. Chi è questo Antonio? Boh, non lo so. Sì, di Antonio io ne conosco uno che è lì, nella zona Santa Maria, dai, non dico la via proprio, ma comunque nella zona, ho detto zona, non bizona, zona. Avanti, Antonio, ciao. Buonasera, buonasera anche a te, Roberto, buonasera a tutti. Cappa, già mi conosci chi sono io. No, ti conosco, non hai capito che ti conosco, non conosco nemmeno tuo padre, cosa mi sei a dire, ma non lo so io. Ne conosco uno che abitava prima a Latte Dolce, zona Prima Delta, come si dice così in gergo cibistico. Se, a meno che non sei quell'Antonio lì, che ne so, può darsi, la voce già si assomiglia, però se sei tu non lo so. Avanti, va bene. Fratello gemello, mi arriva nella matte si volte, di quello che era giù a Latte Dolce. Vai Antonio. Già sono io, già sono io, sono sempre io. Ma io qualche dubbio ce l'ho, la verità. Io qualche dubbio ce l'ho, tu a me mi sembra che ci stai facendo un pochino la calzetta. Come ti dice una volta quella persona malata che purtroppo tanti l'hanno criticato e magari volevano criticarti loro prima di criticare quella persona. Vabbè, già mi avete capito a che mi riferivo. Avanti a tu. Capa, a pensare che pochi giorni fa sono andato anche a casa sua, pochi giorni fa. Cioè la casa proprio dove abitava lui, l'ha presa lo zio, l'ha presa. Ah, ho capito, sì. Io pensavo che ci abitasse il fratello invece. Il marmista, dai, geometra, cosa era? Mi sembra che geometra il fratello. Se, non so se c'era ancora l'attività di marmista, ce l'ha ancora tu? No, anche io penso che no, non faccia più niente. Non lo zio, no, mi pare che era il cugino, non mi ricordo cosa mi ha detto adesso. Però ci sono andato, proprio, me l'ha detto Edo, te la ricordi? La casa di Boletto è questa, è già me la metto, ha detto. Vabbè. Ormai chi è che non lo conosceva? Tutti l'hanno conosciuto a Poletto, era una, per me era una persona abbastanza da rispettare, invece ve lo prendevano in giro, senza rendersi conto che era una persona da non prendere in giro, perché era malato purtroppo. Sono le sfortune della vita quello, però si sa, i sassaresi sono matruffini, come si dice a Sassari, per cui non c'è da meravigliarsi. Avanti Robè. Diciamo ai giorni d'oggi una cosa del genere, io non l'ho conosciuto, non posso dire niente, non posso giudicare, ne ho solo sentito parlare voi, ai giorni d'oggi sarebbe una cosa penale, cioè tipo bullismo e cose del genere, viene punito penalmente, se fai certe cose che ho sentito che si facevano prima, comunque prima si potevano fare tante cose, adesso è diverso, la legge non te lo permette più. Sì, ma era anche una questione di educazione, loro ne abusavano, che poi tra l'altro cosa facevano? Siccome questo ragazzo era anche un po' indenarito, no? Perché si sa, la famiglia era una famiglia benestante, eccetera, e sicuramente non le mancavano i soldi per la pizza, e andavano e lo sfruttavano anche, e ci facevano pagare la pizza, lo invitavano ad andare in pizzeria, però facevano pagare a lui poi tra l'altro, e poi gli facevano anche rispetti, qualcuno è andata a casa sua, ha lanciato la corda, si è agganciata all'antenna e gliel'ha piegata a fare tutto, perché era accessibilissimo il tetto dove abitava lui, sicché uno strappo gliel'ha proprio piegata in orizzontale, gliel'ha messo il tubo, addirittura. addirittura, non solo l'antenna, il tubo addirittura, se che ti puoi immaginare, cosa da non fare, dai, no, non era possibile. Va bene, dai, avanti a tu. Poveretto, già ne hai combinato uno o due, ya. Ma no, non va bene però quello che è successo, la verità no, non va assolutamente bene, perché non è giusto fare queste cose. E non è giusto no, assolutamente, perché ripeto, le persone si devono rispettare. Io capisco come era lui, però dobbiamo anche capire che lui non aveva il cervello dentro il cranio che potesse ragionare in maniera come si deve. Purtroppo era così, era un ragazzo sfortunato, era e lo sarà sempre, perché so che è ancora in vita, per cui non c'è da meravigliarsi che il sassarese, come ho detto, era Matruffini. Cosa vuol dire? Dei bassoni un pochino scelleratemi, che prendono in giro le persone. Vabbè, comunque è andata così. Avanti, vabbè, io riprendo, però vi devo lasciare, dai, perché adesso vado a mangiare. Sempre piacere ascoltarvi, ciao Antonio, ciao Giulio, e poi eventuali qua amici sul canale 10, che penso ce ne siano tanti. Ne ascolto, correti da parte mia, ciao ciao. Ok, ciao Robe, ciao, grazie per la chiacchierata, buona cena, e anch'io mi ancora sto aspettando da un momento all'altro che mi chiamino per la cena, sono già le 8 circa, mancano alcuni minuti, mancano esattamente 3 minuti, per cui noi siamo molto metodici qua e sono sicuro che è solo questione di qualche minuto per la chiamata per la cena. Avanti Antonio, Antonio sta già cenando. Va bene, ciao ancora, ciao di nuovo Robe, ci sentiamo nei prossimi, dai. A domani se coincide, ciao ciao. Antonio, sei rientrato. Chime. Avanti, avanti Daniele. Ehi a Giulio. Qua i motori sono accesi, Guarda un po' se sta migliorando piano piano. Ripeto, come ti ho detto poc'anzi, la radio adesso è un po' più bassa, è chiarissima, non c'è problema, è solo che si sentono tutti i rumori di tutte le ruote che ti girano attorno, però non è un problema, perché quando parli si sente benissimo la voce chiara, pulita, la tua solita voce chiara, è proprio presente come quando siamo di persona, Daniele, per cui non c'è problema. Cappa, a me come mi sentite con questo apparecchio? Io ti sento fortissimo a bomba, per cui meglio di così. Anto, cosa hai combinato, perché? Ho attaccato l'87 con un MB4. È un ottimo microfono e non si discute, anch'io sto usando l'MB4, vecchia versione. Non la nuova versione, la vecchia versione, che forse è la migliore in assoluto, suppongo, perlomeno, e vanno bene, sono microfoni che vanno molto ma molto bene. Avanti Daniele. Cava, cava. Aspetta, mi sta dando fastidio pure a me questa ventola. Così di me non si sente, Giulio. Andiamo, cazzo. Ciao Lu. Sì, si sente di meno col passaggio lì, come faccio? Sai cosa ho fatto io per diminuire un pochino il rumore della ventola, o Daniele? Ci ho messo una resistenza nel filo che arriva alla ventola, ci ho messo la resistenza e gli ho abbassato i giri, gli ho abbassato. Raffredda ugualmente, però si sente molto meno, si sente molto meno, perché anche la mia era abbastanza forte. Tu mi dirai, ma se abbasso la ventola non raffredda? No, invece dico che raffredda ugualmente. Adesso ci ho messo questa resistenza e dunque gli ha abbassato i giri, gli ha abbassato, perché gli ha abbassato la tensione, gli ha abbassato, per cui la ventola si sente molto meno, perché anch'io ce l'ho vicino praticamente, quasi attaccata al microfono, ed è per quello appunto che è un problema, la ventola è un problema, sono elevatori che funzionano bene, questi switching, però il fatto della ventola è un fastidio tremendo. Dunque avanti. Ciao Giulio, ciao Antonio, e Daniele lo sento basso in radio, e beh Daniele? Io lo sento bene. Beh, in confronto a Giulio, a te lo sento basso. se avrai il microfono, il volume alto, tanto. Io ce l'ho normale, io lo sento bene, ti sento bene, lui basso. Kappa, volevo chiedere a Giulio di segnare come sono, di segnare, perché ho fatto una piccola modifica, ho fatto. Guarda adesso cosa dice, 1, 2, 3, 4 e 5, ciao Lucarie. Luca lo riprende, 9 e 5, tu, 9 e 5. Luca, ti ha chiamato Daniele, vabbè si è allontanato, dai. 9-5 Piero, Antonio, 9 più 5 Piero. Mio, ho fatto una piccola cosa, ho tutti gli strumenti attaccati pure. Vedere come sta andando la cosa, la mazza ghettini varia. E suga, allucinante, stavo guardando una cosettina, stavo guardando, c'ho anche strumenti attaccati e sto guardando quanto sono di stazionari e quanta potenza sto usando. Qua sì, 9.30 tu. A voi va bene. Gava, aspetta. Guarda adesso, ora la cipolla. Va bene, la radio tua è sempre bella, Daniele. Ripeto, l'unica difficoltà è che pur per me non è una difficoltà, per me la puoi lasciare anche così perché va benissimo, non c'è problema. Perché la radio non subisce nessuna inclinazione, per cui puoi anche lasciarla, te ne puoi anche fregare del rumore della ventola, ma se poi la vuoi eliminare sarai tuo a pensare come fare, indubbiamente. Però ripeto, la radio è ultima, non c'è problema, Daniele. Sì, Antu, dimmi a quanto lo stai usando il microfono? Minimo sia 5, 6, 7, 8 di volume. Antu? Scusate che sono sceso giù che è arrivata Sara, sai com'è. Ho capito, no, ti avevo chiesto a quanto lo stai usando come volume il microfono, solo quello volevo sapere, perché è una radio formidabile. Senta, io sono un mezzo gigo, un attimino, che guardo, sono la pila mia magica, adesso puoi sentare i picciti, chissà cosa, a 7. Te l'ho indovinato, te l'ho detto quanto me dai, anche così esetti, te l'ho indovinato come volume, ho capito. Luca, sei rientrato? Daniele, come differenza è in radio fra la mia e quella di Antonio come volume? Che differenza c'è? Io ce l'ho a 5 il microfono, sempre l'MB più 4. Come differenza di potenza di radio? Grossa è fra me e Antonio? Cava, Giulio, va benissimo. Sei chiusa la scala. Va bene. Ma sta dicendo tra la differenza di radio tra me e lui com'è? Aspetta, stavo andando anche al piccolino. Quella di Giulio è più limpida, tu. Vabbè che è un'altra timbrica, però la differenza si sente. Certo, non mi piace blu più la modulazione mia. Prova a staccare il lineare a tua e vediamo un po' se cambia la timbrica tua. Prova a staccare il lineare. Io ho il lineare attaccato, aspetta. Prova a abbassare il watt. Abbassare il watt? Che cosa giamba? Se attacchi il lineare, abbassare il watt è lo stesso discorso. Lo stesso significato. Se tu fai una radio che da voi di date che sono io, 50 è come se avessi il lineare attaccato, no? Per cui io me ne accorgo con la segnale, se no solitamente tu mi arrivi Santiago 8 massimo, adesso stai arrivando a 9 più 5, dunque qualche cosa c'è, no, di diverso. Kappa, guarda a vedere senza lineare. Allora, visto là, Santiago 8 adesso stai arrivando. La differenza, anche la radio è meno prepotente, è normale, no? È tutto fa brodo, la potenza fa brodo della voce. Avanti Daniele. Ecchime. Ma voce dalla tua. Però la tua la preferisco di più, Giulio, tutto un altro. Cioè si sente limpida, chiara e bella più amplificata. Ecco, stavo parando, com'è? Adesso è diventata cupa un pochino la tua, la radio, forse allontanati un pochino dal microfono, probabilmente è quello, non lo so, sta diventando cupa, anche perché è aumentato un pochino i watt, per cui sarà quello, non lo so. Hola. Adesso così dovrebbe andare bene, vedi? Per me, premesso che per me va sempre bene, no, io non sono giriato come tante persone, no, non me ne affitti nulla, però devo dire che una minima differenza l'ho sentita da quando sei entrato prima a come sei tornato poco fa. È per quello che ti ho detto questo fatto qua. Cappa, minimo da cosa sto arrivando a 9.30 da Roberto? Perché lo so già quanto arrivo. Sei saturo, Antu? Sì, da me sono saturo, no, sono saturo, non ti preoccupare. Guarda, ora, guarda a vedere, o meglio qua. Da te sono saturo, ma da altre parti non sono saturo, non ti preoccupare. Grazie al cacchio, ma qua sei saturissimo, sei quasi incomprensibile. E vai finirà, non ci crede, ti faccio la registrazione. Ma è un problema tuo, perché dai, attacco l'altra, lo stavo provando adesso, attacco l'altra radio, perché stavo provando un pochettino di watt, stavo provando, vedi, mi ha dato a farla andare c'è a goccia, perché sennò io ti attacco, cioè non è che non ne tengo attaccato, capito? Ok, dai, adesso cambio radio. E questa bugia non le dice. Vai, cavani rugoso, vai. A me impara con i cilici in radio. Ci avrà un po' di cilindro, avrai. Cos'è che c'ho? Che mara sul cilindro. No, questo è liscio come l'olio, non sto usando niente di che. Proprio più 10 qui da me, da lì stai arrivando, la radio è perfetta, è anche più chiara di quella di Antonio, meno potente ma più chiara, no, non c'è problema, io non so come ti arrivo il segnale, del radio me l'hai già detto, per cui va bene così. E non mi interessa più di tanto, anche se ti arrivo a Santiago 5, se no fuggi, interessante che mi capisci bene il radio, sono contento così. Vai Daniele. 9.20 a picchi positivi sei Giulio. Va bene. Guarda, sto usando 10 watt modulati qua. Ok, e anch'io, 12, dai, per esattezza 12 dovrebbero essere quelli che sto usando io, per cui già va bene, alla grande, e ripeto, hai una modulazione bellissima Daniele, proprio bella, mi piace molto. Se tu poi riesci a eliminare il rumore della ventola, hai fatto un terno all'otto, guarda, ti posso garantire che hai fatto un terno all'otto. So che è una cosa un po' difficile perché ti dovresti mettere l'emettatore lontano, magari fuori dalla stanza dove stai modulando, perché lo stesso problema ce l'ho io, per cui siamo nella stessa pentola, o Daniele. E così, va bene, dai, avanti a tu. Cappa, dai, questa è più bella però, dai. Dai, questa no, è più bellina questa modulazione. Giulio, poco fa tu sei andato, guarda, a orecchio e hai azzeccato quello che hai detto prima. Se ti ricordi, l'hai detto. Dai, bianco per me che ha preparato la roba da mangiare, ci sentiamo dopo, ok? Questa ti piace di più, Giulio, vero? Sì, è più chiara la modulazione, è meno potente ma è più chiara. Sì, beh certo. Vabbè, ciao a tutti, ci sentiamo, buonasera allora, dai. Avanti Daniele, no, di cosa mi devo ricordare? Con tutto quello che ho detto stasera, poi sai, io ormai ho una certa età e dunque non è che mi ricordo sempre tutto. Avanti Daniele. Guarda, tu al primo passaggio hai detto una cosa e sei andato a nozze. Zeccata la grande. Al primo passaggio, non mi ricordo a cosa ti riferisci, dai, spiegamelo chiaramente, non c'è problema, no, non ne ho io problemi di nessun genere. Dallo stacco. Lo so, purtroppo è così, è una martellata, è una martellata, è bella, no, sai cos'è, oh, Daniele, che ti rende anche riconoscibile a questo punto, anche se tu non dovessi parlare, con quello stacco ti rende riconoscibile, non ci sono dubbi, è tutto lì, niente di particolare, però no, non è fastidioso nella maniera più assoluta, perché ripeto ancora una volta, la radio tua è bellissima, io ti sento a meraviglia, proprio come se fosse qua vicino, seduto vicino a me, per cui non ha nessunissima inclinazione. Peccato questo rumore di ventola, ma ripeto, anch'io ce l'avevo sino a tempo fa e ce l'ho ancora tutt'oggi, di meno ma ce l'ho, perché come ti ho detto ho ridotto la velocità della ventola, ho inserito una resistenza nel filo positivo del filo che va alla ventola dell'alimentatore, no? Adesso non mi ricordo da quanti ohm l'ho messa, insomma ho abbassato la velocità dei giri della ventola, abbassando la velocità dei giri ha diminuito anche la rumorosità, tutto lì. Tu mi dirai, ma non è una cosa da fare, vabbè, io ho voluto fare, ho tentato e vedo che raffredda lo stesso, anche se gira di meno, però raffredda lo stesso l'alimentatore, per cui è da un bel po' di tempo che l'ho fatto e non è successo niente, perché è fatto già da qualche mese e non è successo niente all'alimentatore e dunque continua a tenerlo così, almeno ho meno rumorosità di ventola, mi sono spiegato da niente. Sì, Giulio, ho capito, sì. Soltanto che il mio è una vibrazione che lui fa da dove è appoggiato, capito? È messo sopra una mensolina in terra con quattro piedini e risuona in poche parole, perché se lo tengo in mano lui è silenzioso. Poi qua ho fatto il soppalco, quindi tutto il legno sotto è vuoto. Lì trovo un'altra collocazione migliore, dai. Adesso nei prossimi giorni lo sistemo, se ce la faccio domani o domenica, che c'ho più tempo, dai. Ho capito, Daniele, sì, anche perché evidentemente sei in una stanza non troppo affollata di arredamento e magari si sente anche l'effetto camera, inteso come, però è piacevole, è molto molto bello, no, non c'è problema. Ripeto ancora una volta, non te lo dico perché sei davanti, ma la radio tua è ottima, ma veramente ottima, lasciala sempre così, anche come volume, perché è eccezionale. Se puoi, ripeto, come ho detto poc'anzi, riesci a eliminare un po' di rumore di ventola, allora hai vinto al totocalcio, hai fatto 14 al totocalcio. Cava, e si conferma, questa arriva dal continente giù, da oltre il mare. Ok, vabbè, dai, se non mi puoi dire cos'è, non lo dire, Daniele, non è un problema, non è un problema. Cava, vedi, adesso sta andando. Sì, certo, sta andando, sì. Va bene, dai. Ancora, le 8:15, ancora non mi hanno chiamato, strano, mia moglie è in ritardo, mia moglie alla tavola la sta apparecchiando un po' in ritardo, non mi ha ancora chiamato. Oggi a digiuno, per punizione ti hanno messo. No, non sono a digiuno, ma voglio dire, non è che ho fame, sia ben chiaro, perché ho mangiato da poco, ho fatto merenda da poco, però di solito sono abituato che lei a quest'ora mi ha già chiamato, oppure mi ha fatto squillare il telefono, perché io sono nella zona alta della casa, mentre lì si trova in tavernetta, capito? Anche se mi chiama la sento lo stesso, però di solito mi fa squillare il telefono, mi fa squillare, allora io capisco, guardo chi è, so che è lei e scendo tutto lì. Ah, dove ne veda? E anche io tra un po' faccio un altro passaggio, altri due passaggi e poi anch'io a fare un po' di carichetta, che oggi sto facendo un corso giù e la sera, meno male che domani ho finito e sono sciolto. Beh, ti capisco, sicuramente è un corso che magari ti affatica un po', dovrai studiare, eccetera. Indubbiamente. A proposito, il piccoletto adesso quanti anni ha? Un paio d'anni, vero? 8 ne ha, mia, lo senti? Saluta Giulia, dire ciao. Lo senti? È bellino. Ciao, bello. vabbè, quando sono piccoli ancora sono veramente simpatici i bambini, o Daniele, vabbè, meglio così, dai. Il tempo passa, non solamente per noi di una certa età, soprattutto per me che ho una certa età, ma anche per i bambini passa lo stesso. A un certo momento te ne ritrovi uomini senza nemmeno rendere conto, senza nemmeno accorgertene. Perché succede così con i genitori, Daniele? Si conferma giù, sembrava l'altro giorno, e sono passati già 8 anni. Io lo chiamo il terremoto, perché è un terremoto, nel vero senso della parola. È che non c'è più la bottega, se no te l'avrei mandato mia a piallare legno, così sarebbe calmato un po'. Capita, e allora, così mi avresti fatto rivivere i momenti di quando veniva mia figlia in falegnameria, che mi vedeva piallando, mi faceva 50.000 domande ogni 10 minuti. Si sa, i bambini sono così, no, ma sono curiosi, quando sono così rispi i bambini vogliono, e allora dice, mi si ne drumilli come l'avevamo magari 50 anni fa, stanno per lì, oggi è meglio che si svegliano, che siano svegli i ragazzi, quando con la vita moderna di oggi è bello che sia così. Eccomi. Daniele. Eccomi, sono riarrivato. Eccolo, sì, giù, così è, ma lui ti fa 250.000 domande, quello che ti deve dire in faccia te lo dice, non, a volte dico stai zitto, no, lui quello che ti deve dire te lo dice in faccia, e non guarda niente, da qualche volta mi ha voglia di farmi un fosso e sotterrarmi. Ma è così, Daniele. Va bene, altro sei rientrato, mi giusto in tempo perché è arrivata la chiamata come che stavo aspettando per la cena, dai, ti lascio con Daniele e poi fate buona chiacchierata e ci sentiamo eventualmente domani se coincide. Ciao Antonio, grazie per la chiacchierata, ciao Daniele, grazie a te, saluti in casa a tutti e due e ci sentiamo. Riprendi Daniele, ascolto il finalino tuo e quello di Antonio e dopodiché vi lascio per andare a cenare. Avanti di Daniele. Cappa Giulio, dai, ci sentiamo domani alle prossime, se coincide. Buona carica, buon tutto, riprendi Antu. Ehi Cappa, salutoni a Cate Giulio, ci sentiamo alle prossime. Peccato che stavo lavorando, se no ci avevamo fatto una bella chiacchierata ancora di più. Ok, di nuovo ciao a tutti e due, ciao chiudo. Ciao ciao, arrivederci. Allora ne ho preso un bel rosmetro della ZG, ma non sa quanto funziona bene. Madre dei Dios. No, ZG io ne voglio sapere più. Da tutto a... Per i fatti suoi vanno quei rosmetri Antu. Adesso mi, se trovo un'offerta più in là prendo... Se lo trovo un Daiwa, un qualcosa di più concreto, quelli sono giocattoli. Beh, io ho un rosmetro che è molto perfetto, non mi ha mai tradito, l'ho fatto la comparazione anche con altri, come si dice, con altri rosmetri di molto più costosi. E mi segna bene, cazzo, ma funziona bene veramente quello lì. Va bene però, mi ho fatto tutte le antenne io con quello. Ho provato anche con un Daiwa, segnava la stessa cosa. Ho provato questo e funziona benissimo. Questo strumento, l'unica cosa che lo devi saper trattare. Se non li comprendi, è logico che ti manda tutto in oramara. Quello sì, a tu. Quello sì. Va bene. Aspetta, Bianco che devo fare una bassa, aspetta. Cappa. Allora, facciamo una tarantula nuova. Ecco. Sola. Vabbè, funziona anche una meraviglia, funziona. È un diero problema. Ora. Cioè, ora. Vabbè. Ora. Vabbè. Non funziona secondo te. Ecchi me. Ehi, allora funziona secondo te? Ti ho mandato il video, ti ho mandato. Funziona che una meraviglia, funziona. Cosa di cosa vediamo proprio i denti? Io non serve, ma cosa siamo di denti? Questo funziona, segna anche i vatti bene. Segna. Se l'ho messo a scala 100 e va perfettamente bene. Ehi Anto, l'ho visto. Cava, cava, cava, cava. Ebbene, non funziona, Daniel. Secondo te? Ehi, già fugge, Anto, io ne ho due di A3G. Però non va bene, non c'ho l'HP202. E l'altro ZG che scala a kilowatt, ma non segnano giusti. Però io ho il 203 e funziona bene, te lo posso assicurare. Se ti metto un apparecchio omologato, vedi che misura come deve essere l'apparecchio, ti misura le 10 watt. Aspetta un attimo. Scappa. Sono tutte cazzate, sono. Magari quelli lì, boh, lo dovrei provare. Lo dovrei, però questo segna giusto, questo è un buon strumento. Perché l'ho confrontato con un altro e va bene. Cava cava cava cava. Hai sentito tanto. Guarda adesso. La voglia che va bene, Daniel, va benissimo. Chi è che voleva entrare? Avanti? Ehi, Daniel. Chi è avanti? Attenzione Daniele, ci sei? Ciao tu! Bomboli! Se ti sparo il cosa bomba è logico che uno succede quello che succede, capito? A quanti fatti lo stai pilotando Anto? No, adesso non ne ho. Prima, ora lo sto pilotando, prima, quando ero attaccato, ho fatto cosa lo piloti a 4 watt, 5 watt massimo. Però non è quello il problema, Daniel. Cioè, o arrivo oltre la potenza, arrivo, è logico che a te ti satura, è già un grido. E io saturo ti stavo arrivando i giorni scorsi. Saturo? No. Non adesso, i giorni scorsi, quando mi sentivi, saturo ero. No. Eppure l'ha agganciato ero. Ma è una cosa allucinante questa cosa. Oh, Daniel. E ce n'erano, di cavalli c'erano in abbondanza, forse più di quelli che stai usando tutta sera. Sì, non ti preoccupare che già venivano i cavalli, se ti arrivavo così vuol dire che c'era un motivo. Cava cava cava cava, adesso ho quella parecchia, ma ti ne stai dando Anto, 10? 10 bastano e avanzano, io sono tutto sotto controllo. adesso. Altro che non funziona, funziona anche una meraviglia, funziona questo coso, lo sto provando. Già va bene, Antonio, già va bene. Cava, cava. Adesso meglio si sente questa modulazione, Antonio. Ti ho abbassato la preamplificazione. No, sente benissimo, si sente. Dai. Va bene, adesso è a tre. Cava, cava, cava, cava. Cava. Uno e uno di stazionarie. Vabbè. Quando parlo salgono appena appena di più e va bene, dai. Va bene, va bene. Ok, dai Anto, che ce la fai, un po' di carica. Se coincide ci sentiamo dopo. E sono alquanto sciolto oggi, boh, basta. Non bevi in radio. No, sono entrato che erano le 8 meno un quarto. Tra telefonate e tutto ho fatto un paio di passaggi, ma stavo facendo altro stasera, tu ero dalle 3 fino alle 7 e un quarto a un corso da ieri e sono esausto, ma credimi, adesso domani meno male ce l'avevo a mezzogiorno e ho finito. Basta. Cappa, ce l'abbigliano in luce, ce l'abbigliano. Oi oi oi. Vabbè, dai, cosa si può fare? Cosa ci vuoi fare? Niente, tanto, se vuoi lavorare, trovarti lavoro, ti devi attrezzare, cava, cava. E avvirare di là tu, cosa di là futti? Che devo ti intendia? Sto scherzando, sto... già l'odore di là, sì, avrei lavorato, ma... l'avrei fatto io. Ah, quello è poco ma sicuro. Va bene. Ok, dai Antu, ci sentiamo dopo alle prossime se coincide, dai. Buon proseguimento e buon tutto. Cavolo, dai, non c'è problema, dai, ci sentiamo. Cavali, mi sei troppo. Già ti faccio un fischio, dai. Così se riesco sposto questo alimentatore, lo ammutoliamo un po'. Ok. Va bueno, dai. Di nuovo Antu, a dopo domani, dai. Ciao ciao. Ciao ciao Daniele, ci sentiamo. Hola, hola. Guarda. sente adesso che ha abbassato un po', cosa dice? Si sente, sente un po' che sono successo adesso che ammazzo. Sono pallosi, guarda, questi alimentatori con le ventole. Perché poi vedi cosa ti porti appresso. Poi vabbè, sente tutta la casa e tutte le cose. Vabbè, il problema familiare si sente.